Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta non la lascia più. Vai su aruba.it. Padri Eterni di Matteo Bussola e Federico Taddia. Eccoci qua, buona domenica da Federico Taddia e Matteo Bussola. I Padri Eterni, ogni settimana qui a parlare di padri, a parlare ai padri su Radio 24. Vi ricordo radio24.it, il nostro sito, ci trovate anche via internet, padrieterni@radio24.it, se volete scriverci via mail appunto per contattare la nostra redazione, oppure attraverso la pagina ufficiale di Facebook, i Padri Eterni di Radio 24, dove mettiamo foto, link degli argomenti che andremo a toccare oggi, tante storie anche strettamente legate all'attualità. Però Matteo, come sempre, un piccolo punto sulla tua, sulla nostra settimana da padri, come è andata? Insomma, Fede, sai, sono settimane avventurose un po' per tutti, insomma, la scuola, le cose, poi sai, adesso ci sono stati quasi in tutta Italia i primi casi positivi di ragazzi scoperti nelle scuole. In generale, da persona che gira anche molto, tra l'altro, oltre che ad avere dei figli esattamente come te, devo dire che riscontro nella grande maggioranza dei casi dei comportamenti virtuosi, ma ahimè anche persone che insomma prendono questa fase con forse un po' troppa leggerezza. Quindi gli inviti alla prudenza da parte nostra, da padri, da genitori, forse insomma non sono mai abbastanza. No, quello è vero, poi soprattutto con gli adolescenti, no? Che insomma abbiamo elogiato un sacco di volte, ma anche adesso sono bravissimi, però non è che non stiano alle regole, perché poi le rispettano, soprattutto a scuola, però la promiscuità, il contatto, sono adolescenti, quindi insomma sta anche a noi genitori, ahimè, essere più pedanti del solito nel ricordare la mascherina, nel ricordare appunto di stare attenti, ma sai, forse questo ruolo archetipico che si attribuivano i padri, no? Di persone che stabiliscono le regole, forse potremmo un po' riscoprirlo in questa fase. Poi ci guardano con occhio strano sempre i nostri figli. Quello è l'altro ruolo archetipico. Vabbè. I Padri Eterni. Parlavamo di adolescenti e la prima storia di oggi ci porta a una tragedia di un paio di anni fa all'interno di una discoteca, la ricordiamo tutti, no? La strage di Corinaldo, e la ricordiamo perché ci ha colpiti in quanto genitori, in quanto persone, perché appunto tanti giovani hanno perso la vita per una sciocchezza, no? Quando il tempo libero diventa il tempo della morte. E non è facile, non è mai facile tornare su questi argomenti, credo che non sia neppure facile il modo in cui ha scelto di farlo questo padre. Lui è Fazio Fabini, è il papà di Emma. Emma è stata la vittima più giovane della strage di Corinaldo, ma Fazio, insieme ad Emma, sì, ha pubblicato un libro proprio per ricordare la figlia in questo dialogo impossibile. Il libro si intitola I ricordi non salvano le lacrime ed è stato pubblicato proprio il 30 settembre, il giorno in cui Emma avrebbe compiuto 16 anni. Ciao Fazio, grazie per essere qua con noi. Buona domenica a voi e ai vostri ascoltatori. Io molto piacere di parlare con voi e con tutti i vostri ascoltatori, perché la mia è un po' una missione. La trasmissione parla di padri, ma fortunatamente di padri che ancora possono svolgere totalmente il loro ruolo di genitore. Io sono un padre dimezzato perché di due figlie, una tragedia. il cattivo comportamento di alcune persone, la negligenza di chi avrebbe dovuto controllare e non ha controllato. Per tanti motivi, mia figlia, che è stata accompagnata in questa discoteca per una festa dei licei, perché da 2 mesi aveva iniziato il liceo classico e questo era il primo momento di conviviale con i nuovi compagni di classe. Era la prima volta che andava in discoteca. Lei, da quando aveva 5 anni, faceva danza alle scuole primarie, aveva fatto il corso di musica, suonava il flauto, amava molto la musica e amava molto stare insieme alle amicizie, alle amiche, e mia moglie l'ha accompagnata in discoteca, si è assicurata che entrasse, e a quel punto ti sembra, come genitore, di aver fatto tutto quello che dovevi fare, ti sei assicurata, dentro sei sicuro. E invece sappiamo bene come è andata. Invece adesso questo sarà la magistratura che indicherà quelle che sono le responsabilità eventuali, però ecco, già di sicuro le perizie giurate del tribunale hanno dimostrato come ci siano tantissime irregolarità. Poi che peso abbiano queste irregolarità non sono io a doverlo dire, e sinceramente come padre mi lascia abbastanza indifferente, perché infatti, niente, nessuno mi darà mia figlia. Te l'ha ridata però la carta, la penna, lo scrivere questo libro, no? Sì. Perché un dialogo impossibile che chissà quante volte avevi fatto, hai fatto o fai ancora nella tua testa. Questo libro chiaramente è una storia che mi piacerebbe anche raccontare, e forse potrebbe essere anche uno spunto in qualche modo per qualche genitore che si possa trovare nelle mie condizioni, perché io l'ho fatto come l'abbiamo fatto io e mia moglie, come rimedio terapeutico, perché io faccio tutt'altro lavoro, da sempre leggo, però non sono uno scrittore, e non mi sono messo un giorno al tavolino, ho detto adesso devo scrivere un libro per mia figlia, su mia figlia e con mia figlia, e semplicemente abbiamo raccolto le cose che abbiamo trovato di Emma, diari e fogli che non sapevamo la presenza, e poi abbiamo raccolto temi scolastici, e mano a mano che trovavamo queste cose le trovavamo sempre più interessanti, perché aveva una capacità di scrittura che a noi ci era sembrata superiore alla media, con una maturità non da dodicenne, tredicenne o undicenne. Certo. E così, Fazio, ti chiedo, scusa, ti interrompo un attimo perché abbiamo dei tempi obbligati, ci fermiamo, diamo le informazioni per chi sta viaggiando, poi torniamo immediatamente da te. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta Padri Eterni. Eccoci qua ancora, i Padri Eterni, siamo insieme a Fazio Fabini, appunto autore del libro I ricordi non salvano le lacrime, pubblicato dalla casa editrice Zeffiro. È appunto il racconto, no? Racconto di Emma, racconto con Emma, proprio partendo dai suoi scritti, dai suoi disegni, dai suoi diari. Fazio, senti, sulla tragedia di Corinaldo ne abbiamo sentite di ogni genere. Lo dico assumendomi la piena responsabilità della mia affermazione. Secondo me molte, troppe persone hanno perso un'ottima occasione per tacere. Per esempio, no, c'è stato addirittura chi ha additato il tipo di musica ascoltato dei ragazzi come causa di quanto successo, no? Siamo riusciti ancora una volta quasi a colpevolizzare le vittime. Tu invece nel tuo libro dici con grande chiarezza che quanto accaduto non è colpa del destino, non è colpa della musica, ma come ci dicevi prima, è colpa proprio della negligenza di un sistema. Ora, tu che cosa speri da padre che Corinaldo ci insegni? Cioè, ti attendi più giustizia, più speranza per il futuro? Cosa ci lascia questa esperienza? Io come cittadino mi auguro che lasci tanto, però purtroppo ho anche memoria storica e ho visto in tanti anni succedere tragedie di vario tipo, varie misure, e poi cambiare veramente poco. Io credo che purtroppo l'Italia è un paese dove le leggi non sono delle disposizioni ma sono dei consigli. Dice, ma sì, la legge dice così, però anche se lo fai, se non lo fai, se chiudi un occhio, se chiudi due occhi, va bene ugualmente, perché tanto chi fa le leggi è solo un cretino, sono cose inutili. Invece perché ci devono essere dei sistemi di uscita sicuri, cioè, ci devono essere dei sistemi antincendio, tutta una serie di sicurezze che non sono delle stupidaggini, che chi doveva accertarle in qualche modo, se avesse fatto il proprio lavoro, non avrebbe avuto mai il permesso. Io mi auguro che appunto come cittadino che venga fatta giustizia, mi auguro che chi ha sbagliato e si è sbagliato paghi, e che paghi anche i cosiddetti colletti bianchi, non solo dei ragazzi che hanno scritto in faccia quello che sono, per cui è semplice condannare delle persone che facevano quel tipo di vita, che hanno fatto quel tipo di azione quel maledetto 8 dicembre. Sarà un po' più complicato condannare e giudicare gli altri. Mi auguro che si riesca a fare, perché bisognerebbe che si imparasse finalmente ad avere una maggiore responsabilità. Certo. Fasti, i ricordi non salvano le lacrime, è un titolo molto forte. Provo a invertirtelo, nel senso che le lacrime salvano i ricordi, nel senso come si tiene vivo appunto il ricordo, come si tiene viva la memoria di Emma? Sul titolo, secondo me, c'è una bella storia dietro, perché questo è sono delle parole, una frase che ho trovato in un diario di Emma, e quando l'ho letto ho subito pensato, questo possono essere le parole che indicano meglio di tutti Emma. È la saggezza di una ragazza di 13 anni, lei l'aveva scritta in un contesto diciamo più generale, in cui lei dava una risposta ipotetica ad una ragazza che si era innamorata di una persona irraggiungibile dello spettacolo, okay. E allora diceva io piango pensando a questa persona, però le lacrime cadono, si asciugano, per cui non serve niente a piangere. Io questo lo so, però non riesco a smettere, e mi rendo conto che i ricordi che ho di questo non mi fanno smettere, per cui le lacrime, i ricordi non salvano le lacrime, uno continua a piangere anche se sa che tutto questo è inutile, non cambia il passato e nel presente. Però è tanto, no? Poi che la poesia, poi anche che nei nostri adolescenti, no? Che hanno la capacità anche con poche immagini, poche parole di comunicarci tantissimo. Fazio, sì. grazie davvero per quello che hai fatto, grazie per aver condiviso con noi questa storia, perché credo che ogni volta sia modo per ricordare, ma quel dolore appunto torna a galla e fa malissimo. Grazie, buona domenica. Grazie a voi, grazie di tutto. Grazie Fazio. Sì, per la nostra prossima ospite, che in effetti è, insomma, sì, cioè, i capelli sono da sì, questo già, ci siamo, già la sento ridere. Allora, prima fase ci diceva che appunto il modo, no? Il modo per conoscere Emma, per far vivere ancora Emma, è stato proprio quello di riscoprire i suoi scritti, no? E i suoi pensieri di fatto messi su carta. L'ospite invece che abbiamo il piacere di annunciarvi tra poco è una persona che i nostri ragazzi li sa davvero leggere, questo mi leggi nel pensiero, una cosa che si è sentita dire tantissime volte dalle ragazze e dai ragazzi con i quali aveva dei colloqui. E leggimi nel pensiero è proprio il titolo del suo nuovo libro appena uscito, un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi, edito da Mondadori Strade Blu. Diamo il benvenuto alla psicologa e psicoterapeuta Maura Manca. Ciao Maura, buona domenica. Buona domenica a voi, buongiorno. Ciao Felice. Maura, ciao. Bentornata. Grazie. Tra l'altro il 6 ottobre esce il libro, quindi insomma è proprio un'anteprima, martedì prossimo in libreria. Siamo proprio qua di sgoccioli, quasi arrivati e sono emozionatissima. Sì, che bene. Avendolo appunto tra le mani e vedevo appunto i tuoi capelli molto rock nella foto che c'è nella quarta di copertina. Allora Maura, insomma leggimi nel pensiero è un titolo anche leggero, un titolo, no, che aiuta, perché la parola pensiero poi ti porta anche, cioè, c'è l'aspetto più chiuso, l'aspetto più cupo, ma c'è il pensiero comunque in qualcosa anche di etereo, però poi si va lì, si va al sodo, no? Si va ai problemi dei nostri ragazzi. Sono tanti i problemi dei nostri ragazzi, Maura? Sì, sono tanti, soprattutto quelli nascosti dei nostri ragazzi, nel senso che tante volte non sanno come comunicarli, non sanno a chi comunicarli, servirebbe una bacchetta magica quasi per leggere nei loro pensieri, ed è una delle richieste che mi fanno tanti genitori: mi aiuti a capire che cosa veramente si nasconde a volte dietro quella corazza, perché non è sempre così facile farli parlare. Io ci ho provato in questo libro, mi sono nascosta dietro gli 8 protagonisti, parlo attraverso le loro parole, quindi apparentemente non ci sono. Cerco di far arrivare i loro vissuti più profondi e i loro pensieri, soprattutto legati a una quotidianità che tanti genitori pensano che un figlio non possa vivere, e che invece a quell'età tanti ragazzi si trovano già ad affrontare in maniera anche molto, molto solitaria. Maura, guarda, vorrei tanto chiederti, no, anche se non siamo terapeuti esperti come te, come si fa a provare a leggere nel pensiero dei nostri figli? Ma insomma temo che sia una risposta difficile. No, parlando del libro, guarda, ti dico, il libro è molto bello proprio perché non è un manuale, ma è narrazione pura. Non spiega, ma mostra, che poi è sempre la cosa migliore. Mi viene in mente, in questo senso, che forse un errore che spesso commettiamo, soprattutto noi padri con i nostri figli, no, è proprio quello di spiegare, mettere regole che poi noi stessi per primi magari infrangiamo. Allora, ti chiedo, il vecchio detto si educa soprattutto con l'esempio. Per noi padri resta tutto sommato sempre la pratica migliore, o c'è qualche altro suggerimento più concreto che ci puoi dare? No, è la pratica migliore, ma soprattutto prima dell'esempio c'è osservare. È una cosa che secondo me stiamo perdendo, perché osservare significa fermarsi anche un attimo a guardare chi abbiamo intorno ed esserci in termini proprio di presenza, nelle piccole cose, nei piccoli gesti, perché tante volte i figli non parlano, però mi dicono: io so che mamma c'è, io so che papà c'è. E questa consapevolezza è la consapevolezza che gli fa andare avanti e gli fa rimanere stabili. Quindi prima esserci, osservare, e poi nel mentre far capire. Non c'è tutto, non bisogna spiegare tutto. È un errore che facevo anche io, l'ho imparato negli anni. Tante volte spiegavo sempre anche io ai genitori, ai ragazzi. Invece quando ho iniziato a mostrare, a portarli dentro, a fargli vivere direttamente quello che si può provare l'uno dell'altro, cioè anche i genitori gli faccio vivere quello che provano i figli quello che provano i genitori, ho visto che è più efficace. Maura Manca, leggimi nel pensiero. Maura, ti chiediamo un minuto di pazienza, ci fermiamo, è il momento della pubblicità, il meteo, poi torniamo immediatamente da te. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta. Padri Eterni. Ancora buona domenica da Federico Taddi e Matteo Bussola, ancora mezz'ora insieme, poi come sempre anche oggi Padri e Treni sul finale, dove daremo un po' di indicazioni di mete per andare a toccare con mano ciò che si studia sui libri. Ma prima ancora con noi Maura Manca con il suo nuovo libro in uscita il 6 ottobre, Leggimi nel pensiero, un viaggio alla scoperta dei problemi dei nostri ragazzi, edito da Mondadori. Sono storie, come diceva prima Matteo, la caratteristica è proprio questa, quasi in prima persona, cioè questa voce, che è la voce di Maura, che è la voce delle ragazze, che è la voce dei ragazzi, una bellissima narrazione. Maura, una narrazione che può essere letta anche dalle ragazze e dai ragazzi stessi, secondo te? Assolutamente sì, l'ho scritto anche per loro, perché così loro si possono identificare direttamente nei vari protagonisti, perché ci sono problemi, ma ci sono anche storie di amicizia, di rapporto fra genitori e figli. Ho dato un ruolo anche ai padri, importante in alcune storie, ai nonni, a un po' tutto, alla scuola, per cui credo che ci si identifichi facilmente, perché sono tutte comunque tratte da storie vere, non c'è nulla di inventato, è solo messo tutto raccontato da un unico protagonista, ma è la somma di tanti tanti tanti ragazzi. Ma tra l'altro nelle varie storie, nei vari rischi che elenchi nel libro, Maura, si parla anche dei rischi della rete, no? Nel libro, il libro si apre con quel racconto anche piuttosto duro e vero di quella ragazza che è convinta di chattare con un coetaneo e si scambiano delle foto, poi scopre invece che è un adulto che la minaccia di pubblicare quelle foto online o di mostrarle ai suoi genitori. Ora, io sono padre di tre figlie, quindi diciamo che la mia è una domanda interessata. Quanto sono frequenti episodi del genere per quella che è la tua esperienza e come possiamo fare noi padri nel nostro piccolo per cercare di evitarli? Io non voglio allarmare nessuno, però sono numeri molto molto alti, tantissimi ragazzi, soprattutto ragazze e bambini ci dicono che hanno avuto contatti con persone che poi hanno scoperto di non essere quella persona con cui credevano di parlare, ma che si nascondesse un adulto. Questo può avvenire anche nei videogiochi, può avvenire nei social, nelle loro attività quotidiane, e quindi bisogna stare molto attenti, nel senso che io dico sempre, se non conoscete fisicamente quella persona, voi non sapete realmente con chi state parlando, e nel racconto, purtroppo è un racconto di storie vissute, di storie vere, cerco di farlo arrivare, ecco perché può essere letto sia dai ragazzi che comprendono è facilissimo cadere nella rete di chi purtroppo conosce la fragilità dei più giovani. E fragilità, rete, che ci portano anche nella tragica attualità, no? Con la storia del ragazzino che pochi giorni fa appunto si è tolto la vita, e tutto quello, il bigliettino che ha lasciato, il famoso Jonathan Galindo, questo fantomatico personaggio di un gioco social. So che sarebbe un discorso lunghissimo, Maura, ma tutto ciò ha un fondo di verità. Qual è la realtà che tu conosci frequentando sia il mondo dei social da anni, sia il mondo delle ragazze e dei ragazzi? Purtroppo è una realtà, come hai detto tu, hai detto secondo me la parola chiave, è il loro mondo, e nel loro mondo c'è anche questo. È una storia che mi ha toccato nel profondo, perché sono tantissimi i pericoli e tante volte finiscono anche in tragedia. È allarmato tanti genitori, perché abbiamo davanti un ragazzo che apparentemente non ha nessun problema, e quindi tutti i genitori si sono identificati dicendo: forse anche noi rischiamo di non accorgerci di quel problema. È importante dire che purtroppo non si muore per un gioco, perché ci sono tanti di questi giochi dove i ragazzi si fanno paura tra di loro, si mandano immagini horror, ma questo fa parte del nostro essere più profondo, le paure più arcaiche, e l'abbiamo fatto noi in altri modi, senza i telefonini, lo fanno loro scambiandosi questo. Ma quello che si deve capire è che deve arrivare ai nostri ragazzi è che dietro questi giochi purtroppo si nascondono delle persone che sfruttano appunto la viralità di queste mode e la facilità con cui i ragazzi cercano queste, di far parte appunto di queste catene, e poi entrano nelle loro menti, li catturano, e a volte si rischia che li portano a fare anche delle cose che in altre condizioni non avrebbero mai fatto. Maura, grazie davvero, insomma è un tema importante, ci torneremo sicuramente su in una delle prossime puntate, magari proprio con te anche, visto che comunque sei un'amica dei padri eterni. Nel frattempo vi consigliamo ancora Leggimi nel pensiero di Maura Manca, un viaggio alla scoperta dei nostri ragazzi, e poi ci sono anche i problemi ovviamente, però per fortuna anche tante risorse. Grazie Maura, bocca al lupo. Grazie a voi, buon proseguimento, buona domenica, buona domenica. Grazie a tutti. Ciao, grazie, ciao, ciao. Maura, ciao. That's life. That's life. That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life. That's life. La voce di Frank Sinatra. Sarà lui? Cioè sarà l'originale o sarà un'imitazione? Che poi insomma c'è chi lo sa imitare meglio dell'originale. Quello è, e lì bisogna essere bravi per davvero. È uno dei secondo me dei più grandi artisti italiani, è bravo, è simpatico, è talentuoso ed è eclettico. Esatto, ed è qua con noi grazie a questo libro dove ha raccontato la sua vita, Stai attento alle nuvole, la mia vita in viaggio, un'autobiografia dove appunto c'è tanta narrazione e dove c'è tanto del suo essere figlio. Diamo il benvenuto a Massimo Lopez. Ciao Massimo. Ciao, ciao Massimo. Come va? Bene. Ma tipo, tu ascolti Frank Sinatra alla radio e lo correggi, cioè dici questo potrebbe, sì, cantare meglio per assomigliarmi, ecco. No. Diciamo, lo so, perché ci sono spesso delle copie. Frank Sinatra mi è successo sul serio, che tempo fa un ragazzo mi disse: ho sentito uno che ti imita uguale. Ed era Frank Sinatra l'originale. Fantastico. Vabbè, comunque è successo così, quello è il frutto di una grande passione. Esatto. Invece Massimo, il frutto di una grande vita, insomma, è questo romanzo che hai scritto, dove veramente sveli tantissimo sì, di te, che non so se è stato più un modo per conoscerti meglio, per conoscere meglio tuo padre, tua madre, le persone che appunto ti hanno accompagnato nella tua formazione. Ma diciamo che questo è stato un desiderio che avevo da tantissimo tempo, quello di poter raccontarmi. È servito psicologicamente a me per tirar fuori alcuni aspetti della mia vita, essendo sempre stata una persona estremamente riservata. E dopo, diciamo, la perdita dei miei genitori, ecco, ci sono state delle coincidenze incredibili che hanno fatto sì che io potessi poi raccontare il mio passato, ma non solo il mio passato, anche il passato della mia famiglia, dei miei nonni, dei miei genitori, perché ho sempre cercato di andare sulle tracce di questo passato, forse per il fatto che ho sempre viaggiato tutta la vita. Sono nato ad Ascoli Piceno, sono di origine napoletana, però ho vissuto a Milano, a Bari, a Padova, in tanti posti diversi, e quindi sono sempre stato alla ricerca un po' di quelle che sono le mie radici, che ho identificato poi alla fine in Napoli. E quando torno in questi posti, specialmente a Napoli, devo sentire queste vibrazioni che fanno parte del passato. Questo passato che non è una nostalgia, ma è un voler ritornare indietro, tenere questo passato e portarlo al presente per poter essere la rampa di lancio per il mio futuro. Ma tra l'altro, Massimo, guarda, a parte la bellezza, no? di poi ce la spiegherai se vuoi, no? Come è nata l'idea di questo libro, con un ritrovamento, con un baule nel quale hai ritrovato dei diari di tua mamma e delle fotografie, ma leggendo il libro si ha proprio la percezione che il tuo è un destino da girovago, non tanto professionalmente, non solo professionalmente, ma hai cominciato da piccolo, no? A causa della professione di tuo padre, che era bancario, che era spesso costretto a cambiare città, e mi ha fatto molto sorridere, perché anche se quella che ti sosteneva artisticamente era tua madre, possiamo dire che questo lavoro di tuo padre, che avrebbe sognato per te magari un'altra professione, in realtà ha favorito il tuo talento, la tua carriera. In qualche modo ha favorito questa carriera. Sì, mio padre forse più di mia mamma aveva probabilmente desiderio che io avessi la classica situazione un po' più sicura, un po' più tranquilla, però lui subodorava che io avrei voluto fare l'attore come mio fratello Giorgio, e tant'è vero che quando poi feci il mio primo provino e venni scritturato dal Teatro Stabile di Genova, glielo raccontai, gli dissi: papà, a cose fatte, gli dissi, io ho firmato un contratto col Teatro di Genova e farò l'attore, farò questa vita. E lui non si stupì minimamente, mi disse: se questa è la tua vita, è giusto che tu lo faccia, e spero di poterti aiutare in qualche modo. Insomma, sì, c'è stato questo sostegno, devo dire la verità, da parte di mio padre e da parte di mia mamma moltissimo, perché lei avrebbe voluto fare questo nella sua vita, quindi ho avuto questo appoggio. E l'incontro, l'idea di scrivere il libro è nata proprio a seguito di altre coincidenze. Io ho conosciuto Sante Roberto, che è l'altro autore di questo libro, abbiamo scritto questo libro a quattro mani, perché è l'incontro fra due forti sensibilità. Lui è anche una bella penna, perché ha scritto a sua volta dei libri, dei romanzi, e mi sono rispecchiato molto in lui, in questi suoi pensieri, in questo modo di raccontare anche certi sentimenti, e quindi è stato di grande aiuto. E lui è venuto con me a fare, addirittura l'ho portato in giro io a fare i sopralluoghi nei vari luoghi, nei vari posti dove sono stato nella mia vita. E quindi insieme abbiamo raccolto tutto questo. E poi è arrivato il baule, come coincidenza finale, questo baule che mi sono ritrovato a casa, che è stato l'anello di congiunzione per poter raccontare poi tutto il resto. Ricordiamo, a proposito, sei girovago ancora, Spoleto, Torino, Aosta, Chiasso, Civitavecchia, Ferrara, sto citando solo alcune appunto delle prossime tappe, Verona, esatto, del tour, Massimo Lopez e Tullio Solenghi Show, insomma continua questo spettacolo che ho avuto la fortuna anche di vedere, ed è bellissimo perché appunto sul palco ci sono due mostri e quindi ci si diverte veramente tanto. Beh, guarda, tra l'altro, Massimo, io ho dovuto spiegare prima a questi superficiali che ho qui in studio che tu sei, diciamolo, hai prestato la tua voce al padre per antonomasia, potremmo dire, cioè quell'Homer Simpson che tutti ben conosciamo. Mi verrebbe davvero da chiederti un saluto, un suggerimento ai padri in ascolto con la voce di Homer. Cosa direbbe Homer ai padri di oggi? Mangiate tutte le ciambelle che volete. Eccolo lì. Adesso, non so, doppiando Homer, appunto, che idea tu ti sia fatto dei padri italiani, e non solo italiani, insomma dei padri in generale. Ho quasi paura a chiederti, però credo sia stata un'esperienza molto divertente, vero? Molto divertente. Poi anche questa è una coincidenza, perché quando io ho iniziato a fare l'attore avevo 23 anni, il mio primo provino al Teatro Stabile di Genova, dove firmai un contratto di 3 anni che diventò poi di 8 anni, fummo in due a essere scelti per questo teatro, e i due nomi erano appunto il mio e quello di Tonino Accolla, che poi è stato il doppiatore di Homer Simpson. E lui, proprio Tonino Accolla, mi disse: vedi, ci hanno scelto, allora vedrai che i nostri nomi si sentiranno anche in futuro. Insomma, mi disse questa cosa qui, ed è poi successo, è nata un'amicizia fra noi. E casualmente poi purtroppo lui è venuto a mancare, e poi dall'America hanno chiesto di fare dei provini per la sostituzione di un Homer Simpson, e dall'America hanno deciso che dovessi essere io, e quindi mi sono attenuto a fare quello che loro mi hanno chiesto, cioè di fare non una vera imitazione di Tonino Accolla, ma di non discostarmi troppo da quella timbrica lì. Certo. Stai attento alle nuvole, la mia vita in viaggio. Ringraziamo Massimo Lopez per essere stato con noi oggi ai Padri Eterni. Grazie. Ciao Massimo. Grazie a voi e buona domenica. Grazie. Ciao. Grazie Massimo. Ci fermiamo al traffico, poi ancora qua con i Padri Eterni. Intimissimi uomo, boxer a 7,90€, nei negozi e online. Vi presenta... Ogni giorno alle 13 i nuovi fatti di attualità iniziano a prendere forma. In 60 minuti proviamo a spiegarveli bene, capire per farsi un'idea da condividere con gli altri, perché la cronaca non è solo una notizia dietro l'altra. Sono Alessio Maurizio e vi aspetto a Effetto Giorno, tutti i giorni alle 13, naturalmente su Radio 24. Padri Eterni, ripasso in Italia. Eccoci qua con il fischio che ci annuncia il momento di Padri Eterni. Come ogni domenica, qualche meta che vi suggeriamo, mete raggiungibili in treno con i genitori, con i padri, con le madri, mete particolari, mete che vi daranno l'occasione appunto di far ripassare ai vostri figli, alle vostre figlie, ciò che hanno studiato a scuola. Quindi prima appunto leggono sui libri questi contenuti e poi perché non andarli appunto a vivere di persona. Insomma, mete particolare, come sempre ci mettiamo in viaggio. La prima fermata? La prima fermata di oggi è a Crotone, dove c'è il bellissimo parco di Pitagora, che è composto da un museo, da giardini interamente dedicati a scienza, arte e matematica, in cui lasciarsi incantare da arte e scienza. La seconda fermata invece è a Carbonia, siamo in Sardegna, per andare a visitare il Museo del Carbone, per scoprire così in un antico giacimento l'esposizione permanente sulla storia della miniera e del carbone. La terza e ultima invece è a Fabriano, per andare alla scoperta del Museo della Carta e della Filigrana e quindi per conoscere una storia, quella della carta, che è lunga più di 700 anni. E adesso ci spostiamo anche noi, viaggiamo anche noi con la nostra fermata privilegiata del giorno. La città è quella di Padova, dove andiamo a visitare il Museo di Geografia dell'Università di Padova. Lo facciamo con il suo curatore, che è Giovanni Donadelli, a cui diamo il benvenuto. Ciao Giovanni, buona domenica. Ciao a tutti. Che so che sei sia padre che pendolare, quindi insomma sei la persona perfetta con cui con cui dialogare. Con cui dialogare, vero? Mi sento a casa. Infatti. Allora Giovanni, un bambino, una bambina, che o un ragazzo, una ragazza appunto, che può venire a visitare il vostro Museo di Geografia, cosa può apprendere? Il Museo di Geografia è un luogo unico in Italia, unico al mondo, è stato inaugurato proprio recentissimamente ed è un luogo che parla in particolare ai bambini, alle famiglie, alle scuole. Lo fa nonostante sia un museo universitario, un museo scientifico, lo fa attraverso una narrazione forte. Accogliamo i nostri visitatori con l'incontro proprio con il geografo del Piccolo Principe, che ci invita a riflettere su che cos'è la geografia, e noi amiamo farlo partendo dalla nostra geografia, la nostra esperienza di geografia. Tutto un po' è geografia e noi siamo carne di geografia, dice la CECLA, e quindi partiamo proprio dalle nostre esperienze, che tendenzialmente, non so se potete confermarlo o no, spero di no, è considerata una disciplina noiosa, che viene inculcata a memoria nei lunghi elenchi, e il nostro realizzare un museo non è ovviamente per decretare la fine di questo sapere troppo noioso, ma è per rilanciarlo, e lo rilanciamo attraverso proprio un viaggio all'interno di un palazzo, un viaggio che ci porta su tappeti geografici volanti o all'incontrare globi magici che si animano di varie animazioni. I bambini sono il nostro primo pubblico, abbiamo tantissime scuole, erano circa 5.000 solo l'anno scorso, e noi fondamentalmente abbiamo uno spazio solo per accoglierli, e e vengono dalla scuola dell'infanzia, in cui facciamo togliere proprio i calzini, le scarpe per restare in calzini, e sui quali facciamo, con i quali giochiamo su un planisfero colorato a terra, fino agli studenti di scuola secondaria di secondo grado, per cui, certo. Con cui lavoriamo, parliamo di letteratura, facciamo volare i droni, e poi soprattutto nelle sale espositive ne abbiamo tre cruciali, sono il cuore della proposta, dedicate alle parole esplora, misura e racconta, e noi misuriamo i cambiamenti climatici e ci misuriamo con i cambiamenti climatici, esploriamo la ricerca, ma non solo, e soprattutto ci affidiamo alla narrazione, quindi uno scenario, una sala buia che ci accoglie, che ci accompagna, ci attivano suoni, immagini, profumi, e quindi è molto molto immersiva come di fatto la geografia. Ma infatti, guarda Giovanni, si capisce perfettamente da come la racconti, no? L'entusiasmo, il fatto che la geografia non è una materia inerte, è una materia proprio viva, no? Tant'è che nelle tre tappe in cui avete articolato il vostro viaggio, lo hai detto tu, c'è già tutto: esplora, misura e racconta. Ti aggiungo una cosa, perché il nostro museo è un museo di padri, no? Di padri fondatori della geografia, la prima cattedra in Italia, 1867, all'Università di Padova, e noi ne raccontiamo un po' l'evoluzione anche del pensiero, poi c'è chiaramente anche spazio per le madri, la prima docente ordinario, Giovanna Brunetta, ma soprattutto la nostra esperienza nasce da una separazione, quindi è molto moderno come separazione tutto, non familiare, ma di anime, perché la geografia in realtà si compone anche della geografia fisica e della geografia umana, per cui Padova è stata una sede unica in Italia in cui questi i docenti che approfondivano, studiavano il mondo usando sia il metodo scientifico che quello umanistico, hanno lavorato insieme, e quindi quando si sono dovuti separare con la legge Gelmini, noi abbiamo detto era un'occasione troppo, troppo ghiotta quella di avere un patrimonio invece che smembrarlo, valorizzarlo, rilanciarlo per raccontare invece la complessità, la profondità e la bellezza. E la bellezza, certo. Non sapere. Museo di Geografia dell'Università di Padova, quindi come tappa di oggi del nostro Padri e Treni, vi ricordiamo appunto mete raggiungibili in treno per ripassare ciò che si è studiato a scuola. Ringraziamo Giovanni Donadelli per essere stato con noi. Ciao Giovanni, buon lavoro. Grazie a voi, vi aspettiamo a Padova. Assolutamente. Ciao, sì. Ciao Giovanni, grazie. Ciao. È il momento dei saluti, un grazie a Filippo Aureggi, oggi alla parte tecnica, Danilo Di Trani, che ha collaborato con noi alla scrittura della puntata. Il grazie più grande, come sempre, però, va a voi per essere stati in nostra compagnia. L'appuntamento, come sempre, a domenica prossima alle 11. Ciao! Ciao! Ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it